paura indescrivibile mi consuma l'anima, come un grande fuoco brucia dentro di me. Vento fra le nuvole, tremore incontrollabile, quando le sue ali sono sopra di me. No, non un sogno, ma questa è la realtà dei nostri giorni. No, fuggire non si può, l'ordine di andare sempre avanti. Nell'oscurità tu chiudi gli occhi e preghi che non ti troverà. Vento fra le nuvole, dolore insopportabile, quando le sue ali sono sopra di me. No, non un sogno, ma questa è la realtà dei nostri giorni. Respingo io gli attacchi e guardo dentro agli occhi tuoi, e presto una bomba all'odio esplode.